se dovessimo parlare dell'Italia come paese della canzone avremmo una certa difficoltà. Poi esistono certi grandi miti che hanno una loro verità di fondo. L'Italia, secondo Stendhal, era il paese di che cosa? Era il paese dello slancio, della passione, del disinteresse, sciocchezze, sì, in gran parte sciocchezze, ma sciocchezze, le sciocchezze dei luoghi comuni, ma c'è naturalmente un fondo di verità, su questo non c'è dubbio. La Francia è un paese in cui la ragione è proprio, diventa il metodo per risolvere da una parte le difficoltà della vita, dall'altra parte un metodo per conquistarsi un'identità nazionale. Io vi avevo accennato l'altro giorno a questo problema della lingua. La lingua francese si muove naturalmente dal latino e ha bisogno di liberarsi del latino, ma al tempo stesso di acquistare un'autonomia rispetto al latino, ma al tempo stesso di acquistare una sua solidità. Qui c'è un rumore strano, scusate. Così va bene. Di acquistare una sua solidità. Questo è lo stesso processo che ci fu nella lingua italiana. Il grande vantaggio della lingua italiana sulla lingua francese è che nella lingua italiana ci sono stati tre grandi scrittori, come sapete, che hanno potuto costruire un'immagine della lingua italiana. Quali sono questi grandi scrittori? Li sapete tutti. Dante Petrarca e Boccaccio. La stessa cosa non è stata in Francia. A un certo momento in Francia vi sono state delle teorizzazioni su come si poteva liberare dal latino, per esempio, costruendo una lingua francese più agile, purificata di tecnicismi, di vocaboli dialettali, di vocaboli arcaici, di diminutivi, di vezzeggiativi, semplificando la sintassi. Questi erano i movimenti sulla lingua che proponeva di compiere un grande teorico della lingua, nonché poeta, che fu Malherbe, dicevamo la volta scorsa. Un secolo dopo, nel suo Art Poétique, Boileau sosteneva che bisognava applicare anche alla costruzione del teatro regole, per così dire, di ragione, nel senso che bisognava far avvenire la scena, svolgere la scena nello stesso tempo, luogo, e bisognava che la scena avesse una sua unità di azione. Questo bisogno di ragione l'abbiamo visto l'altra volta incarnato a un certo punto nella grande figura di un filosofo che era Cartesio. Cartesio diceva che bisognava procedere per idee chiare e distinte, vi ricordate? Era il grande guerriero, per così dire, contro i maghi. Madonna, mi spavento. Capite? Ma o poeta naturalmente, ma la parola l'enciclopedia doveva essere semplicemente una traduzione di un'opera simile che era in Inghilterra, ma di molte più, di molte minori pretese. E poi divenne questo, questa straordinaria illustrazione del sapere umano attraverso la cifra della ragione. Cioè tutto veniva rivisto alla luce della ragione. Un'operazione di questo genere è naturalmente di grande interesse perché consente di abbandonare tutto quello che invece sia appunto del dominio della magia, di pseudoscienze come l'astrologia, delle pattucchiere di cui dicevamo, eccetera. Qual è lo svantaggio dell'illuminismo, se così possiamo dire? A questo riguardo, il libro più bello del corso del XX secolo sull'illuminismo è un libro pubblicato proprio dopo la guerra di Horkheimer e Adorno, che molti conosceranno e che comunque nella sua difficoltà, nonostante la sua difficoltà, rappresenta una lettura estremamente formativa, che è La dialettica dell'illuminismo. In due parole, questo libro è importantissimo, che cosa dice? Gli illuministi vennero, per così dire, gli illuministi, uomini della luce, va bene? Vennero accecati dalla loro stessa luce. Facciamo un esempio molto, molto banale, insomma, no? Se io mi circondo di luce, va bene? È un'immagine che mi sta venendo in mente. Se io mi circondo di luce, a un certo punto c'è il rischio che io stesso rimanga accecato da questa luce che non veda più. Per troppa luce, dice Montale, un verso che mi sta venendo in mente adesso, però questo non l'ha mai fatto così, stavo pensando di spostarmi di posizione, vediamo un po' così secondo me. Per troppa luce, dice Montale in uno splendido verso, le parvenze, le immagini diventano falbe, cioè non falbe, pallide, sbiadite, no? Non si vedono più. D'altra parte questo che vi sto dicendo lo possiamo vedere molto bene, per esempio, quando fate una fotografia, e tutti fate fotografie, sovraesposta, cioè con troppa luce, qual è l'effetto che viene fuori? Che le figure appaiono bianche. Allora la troppa luce fa sì che non si vedano più le sfumature, le ombre del pensiero e della vita, non si riescano più a scorgere. Quindi gli illuministi, e gli illuministi che voi ricordate bene, erano Voltaire, Rousseau, erano Montesquieu, no? Diderot, sapevano distinguere molto bene il nero dal bianco, ma il grigio non lo vedevano. E quella luce che emanavano intorno a sé era una luce accecante. È chiaro il punto, eh? I francesi erano vittime della ragione. Si può anche pensare a come è costruita la frase della lingua francese. La frase della lingua francese è inesorabilmente razionale. Pensate alla negazione come è costruita in francese. Come è costruita la negazione in francese? Poi tu puoi naturalmente in certi casi eliminare il ne, no? Je pas parler, ma la struttura è quella. Il soggetto in francese sta in testa e deve essere enunciato. In italiano noi possiamo permetterci di non enunciare il soggetto, no? Io posso dire in italiano parlo, ma in francese non posso dire parlo, devo dire je parle. Il francese ha una struttura ferrea, molto diversa dall'inglese. Questa è una delle ragioni per le altre, tra le altre, come sapete, per cui l'inglese si è imposto come lingua internazionale dopo il francese, no? Perché è molto più mobile, è fatta di piccole parole, l'inglese, che vengono combinate tra di loro. ricchezza che il francese non conosce. Diceva Leopardi, ve l'ho detto appunto la volta scorsa, diceva Leopardi che era una lingua razionale, precisa, ma non poetica, perché certamente tutto quello che è troppo razionale non è poetico, insomma. Cioè, uno a questo punto potrebbe dire, uno si può innamorare di ciò che è razionale, eh? Certo che si può innamorare, però si innamora più facilmente di ciò che è poetico. Insomma, quindi in qualche misura la qualità, il limite della Francia è in questo sforzo razionale che è alla base della nostra cultura. Per cui se noi parliamo e pensiamo come parliamo e pensiamo adesso, lo dobbiamo solo alla Francia. Quindi la letteratura fondamentale per l'Europa è sicuramente la letteratura francese. Ma certamente la ragione, a parte il fatto che poi molti grandi scrittori francesi l'hanno contraddetta, la ragione rappresenta una sorta di limite. Valéry è uno scrittore che sostiene la ragione anche all'interno del simbolismo, laddove uno può aspettarsi più facilmente che la ragione taccia, perché il simbolismo è caratterizzato da mistero, da sogno, dicevamo, le vie del simbolismo sono queste, no? Mistero, sogno, sfuggenze, eppure all'interno di questo variegato mondo di ombre che il simbolismo presenta, Valéry avanza con la ragione e racconta, dicevamo, di una donna, la Jeanne d'Arc, che cerca nell'ombra, per così dire, se stessa, ma si cerca, si autocerca attraverso la ragione. E quello che colpisce in questo poemetto di Valéry è proprio questa analisi fatta violentemente con la ragione di quelle che sono le proprie spire interiori, insomma. E quello che la ragione non capisce, ecco, attenzione bene, quello che la ragione non capisce non afferra, secondo Valéry deve essere abbandonato. Facciamo un esempio per tutti. A tutti voi capiterà di fare durante la notte, anche se questa espressione è un qualcosa di triviale, di fare un sogno, dei sogni. A me dà fastidio l'idea di fare dei sogni come se uno facesse la pipì o qualcosa del genere. Però quale altro verbo potremmo usare? No. Avvengono queste strane scene in cui noi immaginiamo, cosa immaginiamo? Persone che sono morte che tornano a essere vive, no? Immaginiamo di poter con un passo fare 100 chilometri, immaginiamo di poter fare l'amore con una persona con cui desideriamo farla nella realtà, ma è impossibile. Qual è il significato dei sogni? Tutto, noi sappiamo che tutto il XX secolo è stato ampiamente influenzato da Freud e tutta la sua teoria della Traumdeutung, dell'interpretazione dei sogni, eccetera. Bene, sapete che cosa pensa Valéry dell'interpretazione dei sogni? Ci sono state tante interpretazioni dei sogni, c'era quella di Artemidoro di Daldi, in cui i sogni venivano, non so, se tu sogni, dico la stupidaggine, un attaccapanni, questo vuol dire una certa cosa, insomma. Per Freud no, in genere, se tu sogni un coltello, quello è un elemento fallico, per esempio, no? Ma in genere la interpretazione dei sogni per Freud è basata sulle associazioni libere, cioè io ho sognato una certa cosa, che cosa ti ricorda quella cosa? Ecco. Bene, dell'interpretazione dei sogni freudiana analitica, Valéry non tiene alcun conto, se ne infischia. Perché? Perché dice, si tratta di cose non probabili, non sono cose scientifiche. E allora che fare dei sogni? Niente. Interessante questo. Se io non posso dare un'interpretazione scientificamente rilevante, allora non mi occupo dei sogni. Quindi entra dappertutto con la sua ragione. E nella sua inesausta lotta attraverso la ragione stabilisce quello che è il centro, aprite bene le orecchie, quello che è il centro del suo pensiero, la lotta, attention please, la lotta contro la metafisica. Lei mi segue, lei molto bene. Che cos'è la metafisica? Anzitutto bisogna ristabilire il senso etimologico della parola. Metafisica è ovviamente una parola greca, viene da metaphysis, cioè al di là della physis, al di là della natura. Metafisica, nel lessico di Valerini, sono tutte quelle cose che non, tutte quelle nozioni, non scientifiche. E quando dice non scientifiche, lui intende non verificabili. Sono tutte quelle nozioni non scientifiche, cioè non verificabili, che esercitano uno straordinario fascino, forse proprio in grazia di questa loro sfuggenza e non verificabilità, e quindi un grande potere. Ripeto, nozioni non scientifiche perché non verificabili, uno, due, che proprio in grazia di ciò esercitano un grande fascino e quindi un grande potere. E facciamo il primo esempio di cosa metafisica. L'amore. L'amore. Lei sa che cos'è l'amore? Grosso modo. L'innamoramento, dice Valerini, è una cosa che ti capita, non verificabile, non spiegabile. Perché uno si è innamorato di Pinco Pallino e non di un'altra persona? Quindi l'innamoramento è qualcosa di non scientifico. Si potrebbe poi discutere quanto questo sia vero, sia falso, perché invece studi moderni mostrano che vi sono delle predisposizioni quantomeno quasi chimiche, ma chissà se è vero o no, insomma, all'incontro con una certa persona. Comunque, non v'è dubbio che almeno il tuo oculo l'innamoramento è qualcosa di non scientifico, di non verificabile. Non verificabile in questo senso, non spiegabile. Uno, due, che esercita un grande fascino, e qui però è un appunto, perché è evidentemente la cosa che affascina di più l'esistenza dell'essere umano, no? Senza alcun dubbio. Io ho freddo termine e chiudo aperto le fonte. Potete chiudere le fonte? Sentivo qualcosa di. Quindi, grazie. Ecco. Oh, affascinante e che esercita un grosso potere. E aggiungiamo, esercita terzo una grande forza. Ma la quarta cosa non l'avevo ancora detta, quindi elemento non scientifico, non verificabile, che esercita un grande fascino, quindi esercita una grande forza, il quarto elemento non l'avevo ancora detto, e fa un qualcosa di gravissimo, l'elemento metafisico. Attenzione, semplifica. Facciamo nel caso dell'amore l'elemento metafisico per eccellenza. Semplifica, ci fa credere, su questi argomenti torneremo spessissimo, che la persona sia così come ci appare, la persona amata sia così come ci appare, riconduce la persona a cui noi diamo la nostra attenzione a una sorta di schema, va bene? Questo schema ci rimane in mente senza che ce ne rendiamo conto, come una sorta, sapete i bambini che fanno sulla spiaggia con la sabbia, fanno i castelli, quelle cose, con le formine, no? Ci rimane in mente come una formina, per cui, hai presente questo, Per cui tutto quello che noi poi vediamo o sappiamo di questa persona va a finire in questo schema. Anche se fa un'azione che poi è molto bene, va a finire in questo schema, la riconduciamo a questo schema. Allora un osservatore potrebbe dire, ma guarda che questa persona è diversa da come tu credi, ma siccome noi abbiamo la formina che si è costruita, va a finire nella formina la persona e quindi non la vediamo più. Questo è il concetto metafisico. Questo concetto ci terrà impegnati per molto tempo, perché adesso vediamo altri concetti metafisici di Baldrige. Sapete come lui chiama questi concetti metafisici con cui ce l'ha a morte naturalmente? A proposito dell'amore, ricorderete che la notte di Genova, quella della crisi, avvenne proprio, seppur una rivoluzione mitica, perché lui aveva incontrato una donna di cui si era innamorato ed era succubo di questa sensazione. Lei l'aveva seguito la volta scorsa? No, non l'aveva seguito. Poi se voi l'avete seguito, vi ricordate. Adesso lo ricorda? Capisce bene però? Perfetto. Come chiama questi concetti metafisici tipo l'amore? Ha un'espressione bellissima per chiamarli, li chiama cose varie. Dicendo cose fa sentire come la materialità, se così posso dire, di queste ombre metafisiche. E dicendo vaghe, dice che appunto non possono definirsi, e questo è assolutamente vero, se uno si innamora non sa dire esattamente la cosa che prova, è indefinibile la cosa che prova. Intendo dire che se io ho mal di gola, io so, lei ha mai avuto mal di gola? Non l'ha mai avuto, ma sa esattamente cos'è mal di gola. Mal di gola è qualcosa per cui lei a deglutire ha una certa difficoltà, si sente la gola gonfia, brucia, va bene? È qualcosa di circoscrivibile. Ecco, lei ha sicuramente dei dolori mestruali, che sono qualcosa di... io non li ho, ma è qualcosa di molto concreto, capisci? Un'emicrania molto concreta. L'amore non è concreto. Tu dovresti dire, ma dove sto male? Ma anche non dove sto male, ma come sto male o sto bene, non riusciresti a dirlo esattamente. Facciamo esempio di altre cose metafisiche. Una è l'amore. Un'altra è un concetto micidiale, il concetto di io. Il concetto di io è un concetto filosoficamente moderno, relativamente moderno, nel senso che la filosofia greca, per esempio, non sapeva che cosa era l'io. No, la filosofia greca, il pensiero antico, parla dell'uomo. In Platone il concetto di io non esiste. Si parla dell'uomo che può essere buono, cattivo, attirato dalla bellezza, eccetera, eccetera, ma non c'è l'io. Che cos'è l'io? L'io è il risultato di una riflessione su se stessi, no? Quest'uomo che sta pensando e sta parlando, quest'uomo che in questo momento sta pensando e sta parlando, di cui io avverto la voce, mi seguite? Sono io. Sono io. È un concetto moderno, è un concetto che trova appunto nel cartesianesimo il suo apogeo. E se io dico io, sapete, io ho un certo nome, no? Ho un certo nome, il mio nome è Enrico, non so se voi lo sapete, l'avete. Questo nome mi è abbastanza utile, mi serve abbastanza. Perché? Mi serve perché tra gli intimi, se uno mi chiama con questo nome, io rispondo. Se io sento dietro di me Carlo, Carlo, io non rispondo. Direi che sarei abbastanza pazzo se io rispondessi a qualcuno. che il mio nome non sia molto comune, che se qualcuno mi chiama con il mio nome, ma ci sarà un omonimo evidentemente, io risponda. Ma certamente io socialmente mi identifico con un certo nome. Questo fatto di star sotto un nome potrebbe far pensare che io sono una persona unitaria, che fa un certo lavoro, che ha una certa età, che ha certi rapporti abituali, sentimentali, sessuali, amicali, che ha scritto certi libri, insomma. Dopodiché uno fa, interessato alla cosa, fa uno schizzetto e identifica il personaggio. Vediamo che questa persona mi faccia questo disegnetto, mi identifichi il personaggio. Sei uno che fa questo tipo di cose qui, eccetera. Io leggo e dico sì, questo è vero, però io non sono solo questo, sono altro. Ah sì, dice il mio gentile interlocutore, e che cos'altro? Allora io gli fornisco altri dettagli. La prima cosa che si vede è che certi dettagli che io gli fornisco, o che possono essere forniti anche da lui, sono contraddittori fra di loro. Viene fuori per esempio che Enrico è generoso, ma al tempo stesso egoista, avaro, no? Che è collerico, ma che è paziente. Guardando questo disegnetto che viene fuori che il signore che risponde al nome di Enrico è molto complicato, molto complesso. E alla fine di questo lavoro, mi seguite bene, viene fuori questa strana considerazione. Ma chi è Enrico? Allora io rivolgo a me stesso la domanda, io, persona nominata Enrico, chi sono? Non lo vedo più, non lo so più, sono molte cose. Allora quando uno dice io, sostiene Valerini, quando uno dice io, dice qualcosa di falso. L'io non c'è. C'è solo un coacervo di cose diverse. Questo ha un grande peso, una grande importanza, perché dal punto di vista morale, per esempio, prendiamo un caso di questo genere. Adesso il nome Enrico probabilmente mi imbarazza un po', quindi usiamo un altro nome di corpo. Usiamo il nome di Paolo. C'è qualcuno che si chiama Paolo tra di voi? No? Bene, andiamo a questo. Paolo, un giorno, ha stuprato un bambino di 8 anni. Poi ha avuto paura. Gli ha messo le mani intorno al collo, ha stretto, l'ha ucciso. L'ha buttato in un pozzo, ma l'hanno trovato. Paolo è stato incriminato di stupro, omicidio volontario, occultamento di cadavere. Al processo lo condannano all'ergastolo. L'omicidio era premeditato. Le aggravanti ci sono tutte, viene condannato all'ergastolo. Passano 20 anni e Paolo si chiede, ma perché io sto qui 20 anni dopo? Perché sono in questa condizione di orribile sofferenza non avendo vissuto la mia vita? E si fa questa domanda, ma che rapporto c'è fra me e quello che fece un certo gesto criminale 20 anni fa? Io non so più chi era. Non mi ricordo più quella persona, me la ricordo come in una sorta di sogno. Allora chiama il giudice, chiede un colloquio con il giudice e dice, io ricordo qualcuno che ha ammazzato un bambino. Sì, sì, sei tu. No, era un sogno, io non sono in rapporto con quella persona. Ma il giudice dice, queste tue mani hanno ucciso. Questo non non vale solo in casi drammatici, vale anche in casi di questo genere che vi sto per dire. Uno ha amato una persona, casi molto più. Uno ha amato una persona. Voi siete giovani, quindi le vostre esperienze amorose sono abbastanza, di tempo esiguo, ma per il tempo in cui avete collezionato voi ragazzi una collezione di uomini straordinari. C'è un verso di Baudelaire che parla di una donna che aveva avuto tanti amanti che non potevano starci tra la spalliera del letto e il muro. Ora, quanto c'è tra la spalliera del letto e il muro? Ma immaginate stipare, in francese dice ruelle, stipare, via. Come si fa a stipare un amante? Se schiacci bene. Se schiacci bene, un po' come la spesa. Andate mai alla spesa al supermercato con lo schiaccio, no, prendi un amante, lo schiacci, perché poi ci deve essere il posto per un altro. Arriva un altro, 30 amanti stipati nel letto, nello spazio, no? Nello spazio, per cui poi magari mettendosi a letto, sentiva il nostro letto, diventava morbido, andava, toccava contro il muro, tutti sti corpacci, sti padri, perché io vedo questa cosa assolutamente strana, singolare, stavo parlando del perso dietro. Ah, ecco, questa è un'esperienza di tutti. Questa è un'esperienza di tutti. Capita che poi ci si riveda, dopo molto tempo. E uno lì per lì è sopraffatto da una serie di emozioni, ricordi, eccetera, ma poi dopo un po' si rende conto che la persona è mutata, ma non solo la persona è mutata, che tu sei mutato. E allora si chiede più o meno, ma come questo è potuto succedere? Ma ero io che, vogliamo, baciavo quella donna o quell'uomo? Non è possibile, è possibile. Ora c'è una sorta di estraneità anche fisica, anzi direi soprattutto fisica, ma non riusciamo a pensare che io sia stato con quella persona, Una parte di me c'è stato. E allora la domanda torna, chi ha fatto quello che ha fatto, l'omicidio o l'atto d'amore? È l'amicizia. Chi fu amico di Paolo? E adesso Paolo non ha più alcuna amicizia nei suoi confronti, anzi lo rinnega, lo rifiuta. Che cos'è l'io? L'io, dice Valerie, questo è un concetto fondamentale, è una delle più tremende finzioni intellettuali. L'io non c'è. E quindi se uno mi dicesse, tu hai commesso l'atto criminoso, tu sei responsabile dell'atto amoroso, la persona potrebbe darmi una risposta di questo genere. Ma cosa vuol dire tu, visto che l'io non esiste per me? Ci mancherebbe altro, ma se l'io non esiste, allora io non posso condannarti per nulla. No, sono un coacervo di cose. E che dignità ha allora l'uomo se è un coacervo di cose e non è un io? L'uomo non ha alcuna dignità. L'unica dignità dell'uomo viene dal fatto che questo coacervo, questo mucchietto di cose, pensa, può cercare, può pensare, può andare avanti. Ma l'uomo, l'io, è un coacervo di cose diverse. Abbiamo visto l'amore come concetto metafisico. Abbiamo visto l'io come concetto metafisico, vediamo un'altra cosa come concetto metafisico. La religione. La religione. Cos'è la religione? Credo che un Dio esista. Credo che questo Dio mi abbia dettato delle leggi e che queste leggi sia opportuno, necessario che io le rispetti. in caso contrario avrò dei castighi. Questo è lo schema sostanzialmente. Ma Valerie replica: un Dio? Dov'è questo Dio? Naturalmente è anche facile per rispondere che questo Dio nessuno lo ha veduto. Poi dettato le leggi, a chi le ha dettate? Ma a persone, prendiamo il caso della legge cristiana, no? Ma a persone a Mosè le ha dettate. Chi è Mosè? Ma la persona che mi ha preceduto. Ma tu hai rapporti con Mosè? E no, credo che non li ho. Ma che ne sai che li hai dettati? Sentite come funziona. Che ne sai che questo è avvenuto? Che ne sai che queste leggi dovessero essere interpretate in questo modo? Senti che stai parlando di sciocchezze, dice l'uomo che sta per persuadere il nostro Paolo che la religione è una farsa. Lo senti che stai parlando di sciocchezze? Ma mi ha detto che poi posso andare all'inferno se io non mantengo a queste leggi. Ma dov'è l'inferno? Ma che cos'è l'inferno? Ma è tutto irragionevole quello che dice. La postulazione di un Dio, la postulazione del fatto che qualcuno abbia ricevuto degli ordini da lui e questo qualcuno sia in rapporto con te. Eppure senza religione, replica Paolo, che evidentemente non deve essere molto amico di Papa Benedetto XVI, eppure senza religione non si può vivere. Nel senso che mi sento impaurito, mi sento senza punti di riferimento. E Valerio risponde: bene, è così che devi dire, impaurito, senza punti di riferimento, se i punti di riferimento sono fallaci, sono delle balle. La ragione ti serve esattamente a liberarti da certi fenomeni metafisici, come Dio, come l'amore, come la religione, che sono finte. E guardiamo bene come quei requisiti dell'elemento metafisico sono evidenti nel caso di questi esempi, perché si tratta di nozioni non scientifiche, non verificabili, punto uno. Punto due, nozioni affascinanti. Affascina l'idea di un Dio che vadi al nostro destino, aiuti la nostra sorte, ci premi, ci castighi, in fondo è una specie di prosecuzione di quello che fanno i genitori nella nostra vita. È un punto di sicurezza, no? Elementi non verificabili, elementi affascinanti, elementi forti, più come forte il concetto di io. Addirittura mi sento consistere nel concetto di io, no? E quarto, qual è il quarto elemento che stavo dicendo? Quarto, queste nozioni sono semplificatorie. Se c'è un Dio, questo Dio guarda il mio movimento nella vita e quindi lo giudica, ma tutto questo è semplice. In realtà nessun occhio mi guarda, non c'è uno sguardo che mi segua, io sono solo. E nel caso del Dio, dire io è una semplificazione, no? Ma se al posto del Dio metto tante persone, la semplificazione non c'è più. E così l'amore è una semplificazione, nel senso che se Paolo ama Maria, tutto questo è chiaro. Ma che vuol dire che Paolo ami Maria? Che significa? Ed ecco quindi che questa semplificazione viene ricondotta alla sua natura fallace. La prossima volta continuiamo su questo concetto di nozione metafisica affascinante, non verificabile, affascinante, potente e semplificatrice. Adesso c'è la seconda ora, che serve il primo anno.